Luisa. Buonasera a tutti. Oggi per l'appuntamento della rassegna Un libro per aperitivo organizzata dall'Istituto di Storia Contemporanea abbiamo il piacere di ospitare Deborah Migliucci, che presenterà il suo volume La politica come vita, storia di Giuseppina Re, deputato al Parlamento italiano 1913-2007, edito dall'archivio della Camera del Lavoro di Milano. Innanzitutto vi parlo un po' di Deborah, ve la presento, che nonostante sia così giovane comunque ha accumulato un bel po' di esperienza sia storica e anche politica di militanza. Allora, Deborah ha conseguito il dottorato di ricerca in storia delle donne e dell'identità di genere all'Università Orientale di Napoli e attualmente collabora con la cattedra di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano, dove sta facendo peraltro un secondo dottorato. È vice direttrice dell'archivio della Camera dell'Archivio del Lavoro, che è il centro di documentazione e di ricerca della Camera del Lavoro di Milano e tra le sue pubblicazioni voglio ricordare innanzitutto Per il voto alle donne, 10 anni di battaglie suffragiste in Italia, edito da Bruno Mondadori del 2006, Storia e Costituzione, le basi giuridiche e istituzionali dei 150 anni d'Italia 2011, edito dalla Franco Angeli. Allora, oggi appunto presentiamo questo volume che ripercorre la lunga esperienza politica e parlamentare di Giuseppina Re, nata nel 1913 in una località dell'Oltrepò Pavese da una famiglia di fede socialista, poi fu antifascista, si incontrò con gli ambienti dell'antifascismo politico di Milano, in particolare fu determinante per lei l'incontro con Vincenzo Lodi, organizzatore del Soccorso Rosso, che la fece di fatto approdare poi nelle file del Partito Comunista clandestino. Fu esponente durante la resistenza dei gruppi di difesa della donna, all'interno dei quali svolse un'intensa attività di propaganda politica e tra l'altro il retrobottega del negozio in cui lavorava nel quartiere Isola divenne un punto di riferimento per l'attività dei gruppi. Tanto è vero che divenne sia un centro per lo scambio di informazione sia per la raccolta di viveri e indumenti per i partigiani. Fu poi sindacalista nel secondo dopoguerra, esponente dell'UDI, consigliera provinciale dell'Unione Donne Italiane e poi per l'appunto deputato in Parlamento per il PC tra il 1958 e il 1972, quindi durante 3 legislature consecutive. Ora, io partirei innanzitutto dal titolo, che a me è piaciuto molto e secondo me è un titolo perfetto, La politica come vita, che non solo in qualche modo rinvia al fatto che l'impegno politico di Pina Re è stato duraturo, costante, quotidiano, incessante per tutto il corso della sua esistenza, ma ci dà anche l'idea e la misura di quanto fosse totalizzante la dimensione della politica per i militanti del Partito Comunista, tanto da risolvere al proprio interno, all'interno della dimensione politica, risolvere e dissolvere nello stesso tempo il privato. Se voi infatti leggete anche le memorie autobiografiche dei militanti del Partito Comunista, della generazione a cui apparteneva Pina Re, ci si accorge come la sfera privata in qualche modo sia stata rimossa dal racconto, quasi fosse percepita come secondaria nella gerarchia dei valori per i militanti. Io credo che Pina Re in questo senso non faccia eccezione, perché anche l'estrema riservatezza, l'estremo pudore con cui parlava di sé, dal mio punto di vista non è semplicemente un fatto caratteriale, un dato caratteriale, ma è anche un fatto culturale e probabilmente, poi Deborah lo spiegherai meglio tu, anche di genere. Ora, attraverso la ricostruzione di questa lunga carriera politica di Pina Re, il volume di Deborah affronta alcuni dei nodi centrali che conservano ancora oggi una forte attualità, ovvero il problema della rappresentanza femminile nelle istituzioni, la politica delle donne, le sue pratiche, i suoi strumenti e il nesso cruciale tra emancipazione femminile e democrazia. E direi che Deborah mostra molto bene proprio il processo costitutivo della rappresentanza, le modalità, i meccanismi attraverso cui una donna comune come Pinarè giungeva a sedere tra i banchi di Montecitorio, ricostruendo minuziosamente quali fossero appunto i canali, le strategie, le reti relazionali, i gruppi di pressione. E la scelta di focalizzare l'attenzione su un personaggio, su una figura come Pinarè, non soltanto acquista, assume il significato di colmare una lacuna storiografica, nel senso che, come dice Deborah stessa nel suo libro, la storia del Parlamento italiano è stata quasi esclusivamente declinata al maschile, ma assume anche il significato di valorizzare e rendere visibili i cosiddetti quadri intermedi, le figure intermedie come Pinarè, che la storiografia ha spesso e volentieri ignorato e trascurato perché marginali ai processi decisionali e all'elaborazione della politica, ma in realtà sono figure appunto insostituibili come collettori tra Parlamento e cittadini, tra vertice e base. Un aspetto poi molto importante del libro di Deborah è la lettura incrociata delle carte parlamentari, che occupa quasi tutta la seconda parte del suo libro, attraverso cui appunto Deborah ricostruisce l'intensa attività legislativa di Pinarè. Pinarè, la chiamo Pinarè perché era conosciuta affettuosamente in questo modo. E soprattutto attraverso le istanze di cui si fa portatrice come donna appunto del PD, così del PD, come donna del PC, scusate tanto. È un lapsus questo. Chissà se sono stata del PD. Lasciamo stare. Come appunto donna del PC, come esponente dell'UDI, se appunto leggiamo anche le battaglie parlamentari di cui si fa protagonista e le proposte di legge di cui è firmataria, si prende chiaramente coscienza di come il movimento politico delle donne abbia concorso in maniera determinante a modernizzare il nostro paese, a correggere, a modificare assetti sociali ingiusti, ad anticipare riforme complessive, insomma in qualche modo a disegnare i parametri del welfare italiano, con tutti naturalmente i limiti. Alcune delle battaglie poi di cui appunto Pinarè si fa protagonista, come per esempio quello del divieto per il licenziamento di matrimonio, il grande tema della casa come diritto di civiltà, che la vedrà impegnata addirittura anche per 20 anni, una volta conclusa anche la sua esperienza parlamentare, vero che contribuirà a fondare il sindacato degli inquilini, appunto il Sugna. Il tema della difesa del diritto al lavoro, all'occupazione femminile, la tutela della lavoratrice madre, la parità salariale, ecco, alcune di queste proposte, scusate, troveranno poi uno sbocco legislativo proprio all'inizio degli anni 60. Altro tema particolarmente caro a Pinarè erano quelli dei servizi sociali appunto per l'infanzia, che era strettamente legato poi anche al diritto al lavoro delle donne. Io so, appunto, volevo essere brevissima per non togliere spazio a Deborah, dirò soltanto un'ultima cosa, e cioè che in un qualche modo le vicende politiche di Pinarè sono anche strettamente legate al nostro territorio, nel senso che nel 1956 il partito chiede a Pinarè di diventare direttrice della Anita Garibaldi, che era una scuola per la formazione dei quadri femminili del Partito Comunista ed aveva sede a Faggeto Lario, e per importanza e consistenza era seconda soltanto a quella romana delle Frattocchie. Ora io non voglio togliere spazio, voglio semplicemente dire che il libro di Deborah è ricchissimo di stimoli, di suggestioni, si legge davvero piacevolmente, perché comunque il rigore scientifico non toglie nulla alla piacevolezza della lettura, e piacevolezza della lettura che non è facile, nel senso che lei è riuscita anche in maniera molto abile ad intrecciare, a incrociare anche fonti molto diverse tra di loro. Comunque niente, ora passo la parola a Deborah e la ringrazio ancora. Grazie, cioè proprio questa presentazione non vorrei poi scappare i complimenti che sono stati fatti. E vi ringrazio per questo invito, non tanto per me ma per la Pinarè, come veniva chiamata, la Pinarè tutto attaccato. E volevo raccontarvi subito questo episodio perché qualche anno fa, quando appunto è uscito il libro e io andavo a presentarlo nelle sedi sindacali, soprattutto a un certo punto, per dare rigore scientifico alla mia presentazione, io parlavo di Giuseppina Re, dell'onorevole Re, e non vedevo un grande entusiasmo. A un certo punto, verso la fine della presentazione, mi è scappato la Pinarè, e si sono alzati due signori che mi hanno detto: ah, ecco allora di chi stai parlando, della Pinarè! Perché, insomma, era conosciuta così, la Pinarè, tutto attaccato. E... beh, devo promettere che effettivamente, quando ho iniziato a studiare le carte di Pinarè, carte che lei aveva conservato con puntualità, con dovizia, e che aveva già proceduto a inventariare, quindi insomma la sua vita era veramente tutta conservata, e mi sono resa conto immediatamente che stavo affrontando il percorso politico di un quadro intermedio, e quello che inizialmente mi sembrava una diminuzio, perché come rendere importante la vita di un quadro intermedio, a un certo punto mi sono resa conto delle potenzialità che questo aveva, perché appunto essendo lei un quadro intermedio e non Nilde Iotti, non Teresa Noce, donne che hanno vissuto in prima persona alcuni momenti eccezionali della vita del Partito Comunista, che a volte hanno contribuito alla nascita del Partito Comunista, dicevo, studiare il quadro intermedio mi permetteva di entrare in maniera un pochino più stringente nei rapporti della politica. A un certo punto mi sono resa conto che mi era necessaria la mia militanza politica per capire cosa stava accadendo alla vita di Pinarè. Voglio dire, era necessario capire, vedere dall'interno come funzionava un sindacato e un partito, per capire appunto questa catena, questo iter della rappresentanza, e quindi per capire perché Giuseppina Re, una, diciamo, donna comune, come amava definirsi, fosse riuscita nel secondo dopoguerra a diventare parlamentare, direttrice della storia di partito, parlamentare poi per più legislature, e arrivare ad essere un importantissimo quadro sindacale e politico. E non solo, ma occuparmi appunto di un quadro intermedio mi ha permesso, come ricordava Roberta, di capire qual era l'iter decisionale in Parlamento, come i lavori parlamentari venivano organizzati, dove si prendevano le decisioni, che più delle volte non era ovviamente nell'aula parlamentare ma al di fuori, e di capire che lavoro importantissimo svolgevano i deputati di Re di allora, quelli che venivano eletti con le preferenze, quelli che si guadagnavano la rappresentatività sul territorio, quindi con i comizi, con il lavoro tra le donne, nel caso di Pinarè, con il lavoro tra la gente. E altra complessità del personaggio è che, essendo stata parlamentare per un tot di legislature, si è trovata ad affrontare dei temi che erano cruciali per l'Italia negli anni 50, 60 e 70, e di cui ancora noi vediamo l'eredità, di cui poi ve ne parlerò in maniera più specifica. E ultima cosa per chiudere la premessa: l'occuparmi di una donna, di una donna che si occupava di politica, mi ha permesso di applicare l'ottica di genere e quindi di cogliere le contraddizioni del rapporto tra donne e politica, anche all'interno di un partito come quello comunista, che era progressista e che aveva fatto della battaglia per l'emancipazione delle donne quantomeno un punto del suo programma. Quindi quello che ho tentato di fare, insomma, spero di esserci riuscita, è quello appunto di colmare una lacuna storiografica, quindi di dare alla storia del Parlamento anche un contributo non solo maschile, perché fino a questo momento, ma ancora oggi, la storia del Parlamento è la storia delle grandi cariche. Si studiano i presidenti di Camera e Senato, non tutti, perché Nilde Iotti, ad esempio, è stata dimenticata per tanto tempo, si studiano i leader di partito, ma quasi mai si vanno a studiare appunto i deputati, i senatori, i semplici, diciamo, deputati e senatori. Poi andare avanti. Sì. E nel caso di Pinarè tutto questo si intreccia, soprattutto ci arriveremo alla fine, perché Pinarè era considerata un uomo di partito, oltre che un rappresentante delle donne. E quindi qui ci sta proprio tutto il nodo, tutta la contraddizione di cosa voleva dire per una donna negli anni 50 e 60 essere un deputato, come lei stessa si definiva, e non deputata. Anzi, quando in un'intervista che Giuseppe Granelli, un militante della FIOM, a sua volta famoso perché non so se lo conoscete, ma è il protagonista di un libro di Manzini, Una vita operaia, quando Giuseppe Granelli negli anni 80 la intervistò e le chiese: ma insomma Pina, ma tu cosa sei, deputata o deputato? Lei in un attimo di imbarazzo, negli anni 80 c'era già stato il femminismo e allora aveva detto scrivi parlamentare, che almeno era neutro. E, insomma, la vita della Pina Rai non è per certi versi una vita esemplare o eccezionale, è un percorso che condivide direi con un'intera generazione, quella generazione che si è trovata a nascere tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e che quindi ha visto il diffondersi degli ideali socialisti prima e poi purtroppo la venuta del fascismo e della dittatura e quindi la repressione delle libertà e quindi di conseguenza la resistenza in cui, come veniva ricordato, lei ha avuto parte, anche se per la verità il Pinarello partecipa alla resistenza soltanto nei mesi precedenti l'insurrezione di Milano, quindi poco prima di quel 25 aprile del 45 che noi adesso festeggiamo come la liberazione. Ma la sua adesione all'antifascismo è un'adesione che deriva dagli ambienti familiari. Il papà di Giuseppina Re era un esponente del socialismo pavese, a casa di Giuseppina Re passavano Canevari o Malagugini, tutti personaggi che poi sarebbero diventati dei parlamentari del Partito Socialista. E anche la mamma di Giuseppina Re era a suo modo una militante, per quanto lei stessa dica, aveva tanto da fare in casa, il papà per quanto fosse socialista non è che divideva il lavoro di cura, quindi era più il papà il militante, la mamma aveva delle idee socialiste ma stava a casa spesso a curare i figli, a attendere la famiglia. E quindi Giuseppina Re è cresciuta con i racconti di suo padre, degli anarchici Sacco e Vanzetti, è cresciuta con le feste del primo maggio che si ricordava da bambina come delle feste divertentissime, con il parroco che suonava le campane per in qualche modo disturbare i comizi dei socialisti. Però quello che raccontava Giuseppina Re è che suo padre gli aveva sempre detto: meglio i preti che i fascisti. Per cui, e questa cosa se la porta anche in Parlamento, perché in Parlamento è una di quelle donne del Partito Comunista che tenta un'alleanza con le donne cattoliche per far passare alcuni provvedimenti di legge che erano utili alle donne nella totalità, senza guardare gli schieramenti politici. Giuseppina Re a un certo punto con la famiglia è costretta a scappare dal paese, perché il papà è un socialista, è un sindacalista. Le cose si mettono male, le squadracce fasciste più di una volta entrano nella casa del popolo, picchiano i militanti, bruciano la sede. Lei si ricorda che loro dormivano con una scala sotto il letto per poter scappare nel caso arrivassero le squadracce fasciste. Spesso il papà non dormiva in casa con loro, ma cambiava casa per non essere intercettato. Quindi questo è l'ambiente culturale e politico da cui proviene. A un certo punto sono costretti ad emigrare, fanno gli emigranti all'incontrario, perché vanno in Abruzzo. Vanno in Abruzzo, a Isola del Gran Sasso, tra l'altro poco distante da dove poi nel 43 sarà rinchiuso Mussolini. Lei se lo ricorda, si ricorda del trambusto che c'era intorno a Isola del Gran Sasso quando si diceva che era nascosto il Duce e loro pensavano che la guerra a quel punto era giunta alla fine. E proprio in quel 43, quando Giuseppina Re torna a Milano, rimane bloccata a Milano, non può più tornare in Abruzzo perché la guerra non è finita e anzi da lì a poco sarebbero iniziati i bombardamenti. Quindi mi dicevo, una vita è una biografia abbastanza comune, non eccezionale. Non vorrei fare della Pina Re un caso emblematico, sicuramente una donna che ha scelto da che parte stare, ma condivide almeno questa prima parte della sua vita con tante altre militanti, penso a Stellina Vecchio. Ed è grazie proprio a Stellina Vecchio, a Stella Vecchio, che verso il marzo del 45 la sua attività di resistente, che fino a quel momento poteva essere considerata una resistenza personale. Se vai avanti un attimo, sì. Sei già lì? No, è giusto, volevo farvi vedere vi ho portato la fotografia della drogheria Maiocchi. Questa era la drogheria del negozio che è in Piazzale Lagosta, non so quanti di voi conoscano quella zona vicino alla stazione centrale. Ecco. E proprio dietro, nel senso nel retrobottega della drogheria Maiocchi, Giuseppina Re, prima ancora di aver incontrato con tutti in difesa della donna, organizzava la sua resistenza personale, per cui nascondeva un po' di zucchero da dare alle famiglie, le portavano dei vestiti che servivano per i partigiani che dovevano togliere di smettere le divise, e lì di fronte si svolgeva un mercato che per dire la verità fino a qualche anno fa non c'è ancora, presso, ma non è più lì perché ci sono le ore della metropolitana. Adesso sì, adesso però insomma il mercato di Piazzale Lagosta è stato l'atrio delle battaglie dei gruppi di difesa della donna ed è lì che Giuseppina Re incontra e intercetta Stellina Vecchio e con lei negli ultimi due mesi inizia ad organizzare l'insurrezione di Milano. E vai avanti. Qui vi ho portato un'altra foto anche per rendere insomma un pochino meno noioso più conviviale la presentazione. Qui la vediamo a Cinisello, che è a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, con alcuni compagni della federazione. C'è lei, lì c'è anche Nori Bambini da Pesce, c'è Stellina Vecchio, credo che da qualche parte ci sia anche Alberganti, c'è Cossutta, quello con il ciuffo e gli occhi, gli occhiali là in alto è Armando Cossutta. Insomma, c'è tutta una generazione di militanti del Partito Comunista, di futuri dirigenti del Partito Comunista con bambini a seguito. Nell'immediato dopoguerra Giuseppina Re lavora come funzionaria per il PC e per la CGIL. Voi sapete che in quel periodo le due organizzazioni potevano quasi sovrapporsi. Alberganti era il segretario del Partito Comunista milanese, ma era anche il segretario della Camera del Lavoro di Milano. Non c'era una vera e propria divisione tra i compiti, non c'era quell'incompatibilità che poi avrebbero inserito alla fine degli anni 60. E quindi Giuseppina Re appunto è funzionaria sia per il PC che per la CGIL tra le lavoratrici del Lodigiano. E il lavoro ovviamente nel secondo dopoguerra non era come quello che noi viviamo adesso, per cui lei raccontava cose che poi si ritrovano effettivamente in altre testimonianze, come un compagno del partito con Motorino la portasse in giro per i comizi del Lodigiano e arrivati nella piazza per il comizio, di solito tutte le finestre erano chiuse, non c'era nessuno ad ascoltarli, ma lei sapeva e sentiva che c'era qualcuno dietro la finestra con l'orecchio teso. Insieme a questo compagno, loro Motorino, avevano anche una scaletta, un trabicolo su cui salivano e facevano questo comizio. E poi la notte si dormiva dove si trovava a posto, in qualche sede disabitata, e l'unica cosa che aveva in dotazione era un fornelletto e una coperta dell'esercito americano. Per cui questo era l'inizio della vita politica di Giuseppina Re. Poi a un certo punto la eleggono come in segreteria della Federterra e incomincia a occuparsi delle mondine. Ora io, prima di conoscere appunto in maniera approfondita questa storia, quando mi parlavano delle mondine io pensavo ai canti, no? E quindi nel mio immaginario le mondine erano delle signore che lavoravano e cantavano. E invece devo dire che la vita delle mondine era alquanto dura, perché innanzitutto erano stagionali, quindi arrivavano da diverse parti d'Italia, della Valle Padana, e viaggiavano su carri bestiame. Nelle stazioni di passaggio dormivano per terra, perché addirittura non le venivano aperte le sale d'aspetto, per cui erano costrette a dormire insomma sulle banchine. E poi quando arrivavano sul luogo del lavoro gli agrari non è che le trattassero, c'erano mano d'opera a basso prezzo, quindi dormivano in camerate, senza i servizi igienici, con una razione alimentare piuttosto bassa, e stavano tutto il giorno sotto il sole piegata a fare le mondine, la monda appunto. E spesso si ammalavano di malaria, di artrite. E quindi quando Giuseppina Re e le sue compagne insomma si trovano di fronte a questa situazione, le prime cose che fanno sono piuttosto pratiche. Incominciano a contrattare con il padrone un'alimentazione migliore, giovani si battono affinché l'artrite venga riconosciuta come malattia professionale. E si battono perché anche alle donne dell'agricoltura venga riconosciuto il diritto alla maternità, come era da poco stato conquistato per gli operai dell'industria, grazie a un'altra grande sindacalista che era Teresa Noce, che in quel periodo era anche segretaria della Fiotto. Si batte per il miglioramento dei servizi ferroviari che erano necessari alle mondine non soltanto per recarsi sul luogo di lavoro ma anche per tornare ogni tanto a casa. Erano donne spesso mobili, erano donne che viaggiavano da sole. E tutto questo girovagare, sia per le campagne che anche per le industrie milanesi, porta a Pinarè una certa visibilità. Tanto che nel 48 ci sono le elezioni politiche e Giuseppina Re è conosciuta tra le lavoratrici e il PC la candida. Il Partito Comunista la candida in quota donne e in quota sindacato. Ma insieme a lei c'erano candidati nuovi, c'era Alberganti, c'era Lelio Basso per i socialisti. Insomma, le elezioni del 48 sono quelle elezioni in cui si scatena, no, la lotta tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana, sono quelli dei primi manifesti. Donne, salvate i vostri figli dal comunismo, dove si vedevano questi bambini che venivano sbranati dal comunismo e dall'altra parte non è che i comunisti fossero meno aggressivi con la Democrazia Cristiana. Mi ricordo un manifesto soltanto, che tra l'altro è conservato nel fondo di Pinarè, dove c'è questa donne cattoliche, votate Democrazia Cristiana per il vostro avvenire, e c'è una donna ben pettinata, ben vestita, con gli orecchini di perla, che è la donna cattolica, e a fianco c'è una donna brutta, grossa, col pugno alzato. Gisella di Bocca. Che è una donna comunista, ecco. Quello era il clima che si respirava. E quindi il Partito Comunista la candida. La candida e viene presentata agli elettori in questo modo: le operaie delle fabbriche, le contadine della nostra provincia conoscono quasi tutti il viso dolce e sereno della Pina. E che cosa era successo in quel periodo? Oltre appunto al lavoro tra le mondine, le sindacaliste in particolare e le comuniste si erano premurate affinché il sindacato non decidesse di accordo con i datori di lavoro di ricacciare a casa le donne, perché come ormai la storiografia ampiamente ha sottolineato, alla fine di ogni guerra, quando gli uomini e i reduci tornano dal fronte, si decide che allora le donne devono ritornare a casa, perché il lavoro, tutto sommato il lavoro extradomestico delle donne nel nostro paese è sempre stato considerato accessorio, complementare rispetto a quello dell'uomo, e quindi il titolare del posto di lavoro è l'uomo, e in periodi di sovrabbondanza di manodopera bisogna occupare gli uomini e non le donne. E tenete presente che contemporaneamente in Assemblea Costituente si stava discutendo uno degli articoli che poi è diventato l'articolo 51, insomma quello che dà accesso a uomini e donne a tutte le carriere, e anche in Assemblea Costituente si tentava di limitare le carriere delle donne a quei ruoli che sono in qualche modo considerati naturali per le donne, no? Come se ci fosse qualcosa di naturale e non di culturale. Per cui, mentre c'è in atto tutta questa propaganda e tutta questa, diffusione culturale, no? Delle donne che devono stare a casa e occuparsi di affari per loro più naturali, le sindacaliste che cosa fanno? Organizzano dei sit-in davanti alle fabbriche e organizzano un tesseramento di massa tra le donne, perché si rendono conto che più donne si iscrivono al sindacato, meno interesse avrà il sindacato poi di ricacciarle a casa, perché vuol dire tessere in meno, perché vuol dire potere in meno. E questo è il motivo per cui Giuseppina Re, Stellina Vecchio e tante altre incominciano ad essere piuttosto note tra le fabbriche, tra le donne che lavorano nelle fabbriche milanesi. E infatti, insomma, questo è testimoniato dal grande successo elettorale che Giuseppina Arè ha nel 1948, quando viene eletta con 33.500 voti, che era insomma una base elettorale piuttosto consistente. Ma cosa succede? Succede che dopo un mese si dimette. Si dimette con una lettera pubblicata sull'Unità in cui spiega che per ragioni di salute aveva infatti contratto la tubercolosi, non può adempiere al suo compito di parlamentare e quindi il partito la fa ricoverare a Miazzina, in sanatorio, dove rimane per quasi un anno a curare la tubercolosi. C'è da dire che non tutti credono a questa spiegazione e la stanza di Giuseppina di Miazzina viene inondata di lettere, qualche centinaia di lettere che lei conserva tutte minuziosamente, quindi sono visibili, di compagni di partito del sindacato, amici, amiche, semplici elettori che l'avevano votato, che gli dicono: ma perché ti sei dimessa? Io non ci credo. Alcune molte molto arrabbiate, e perché infatti, e lei in qualche modo poi in quella famosa intervista negli anni 80 ammette che più che ragioni di salute erano ragioni di partito. Che cosa era successo? Era successo che nelle elezioni del 48 il Partito Comunista e il Partito Socialista si presentavano nel fronte popolare, quindi alleati, e se all'inizio, prima delle elezioni, pensavano che tutto sommato ci sarebbe stato un equilibrio tra gli eletti comunisti e gli eletti socialisti, c'era la tripla preferenza, quindi gli elettori esprimevano tre preferenze, e invece a elezioni concluse si erano accorti che erano stati eletti molti più deputati comunisti che socialisti e quindi bisognava riequilibrare la rappresentanza socialista in Parlamento. E una delle persone che non era stata rieletta è il famoso Malavugini, il socialista che lei conosceva perché era amico del padre. E allora diversi deputati comunisti avevano dato le dimissioni che non erano state accettate perché non c'erano motivi conclamati. Un motivo conclamato quale poteva essere? Ragioni di salute. Giuseppina Re effettivamente aveva contratto la tubercolosi e quindi le sue dimissioni erano, appunto, potevano essere accettate più facilmente, quindi il partito le chiede di dimettersi e lei si dimette, e ironia della sorte, al suo posto entra proprio Malavugini, cioè quella esponente socialista che insomma gli aveva fin dall'inizio spiegato cos'era il socialismo. Se vai avanti, lì la vediamo, non so se qui è un po' prima o dopo essere tornata alla medicina, in Camera del Lavoro a Milano, durante un'iniziativa, presumibilmente, non so chi è da tale, ma deve essere Natale, perché ci sono dei panettoni. In tasca all'Unità, ovviamente, Giuseppina Re è la seconda da sinistra. Quindi, come vi dicevo, Giuseppina Re viene ricoverata a Miazzina per un anno, e anche lì ne conviene tutti i colori, perché a quell'epoca per sconfiggere la tubercolosi c'era bisogno di una medicina che adesso non fatemi dire il nome che non me lo ricordo, ma è sperotomicina, qualcosa del genere. Ecco, e però ovviamente era molto costosa, non c'era servizio sanitario nazionale per intenderci, quindi non la passava lo Stato. E il partito era riuscita però a procurarne qualcuna per lei, ma lei non poteva considerarsi una privilegiata, e quindi con un gruppo di degenti organizza una raccolta fondi straordinaria per comprare per tutti i malati questo farmaco, e effettivamente ci riesce. Quando viene dimessa da Miazzina, a quel punto il Partito Comunista le chiede, le offre la direzione della scuola femminile Anita Garibaldi a Foggetto Lario. E un incarico, se vai avanti ci sono le sue parole, che mi fece molto impressione, dice addirittura: mi erano venuti i capelli bianchi in quel periodo, perché io uno studio sistematico non l'avevo mai fatto. e continua, quello della scuola femminile forse fu l'impegno che mi spaventò più degli altri. Perché? Perché Giuseppina Re aveva avuto una carriera scolastica sbagliata, tra spostamenti dal Palese all'Abruzzo e il fatto che era l'ultima, una delle ultime tra le figlie femmine, non aveva completato la carriera di studi e quindi non si sentiva in qualche modo preparata ad affrontare un ruolo e una missione così importante. Se voi pensate che il Partito Comunista veniva chiamato il Partito Educatore, no? Aveva costituito fin dal 44 delle scuole in ogni cellula e poi nelle fabbriche e nei quartieri, insomma aveva una grande, diciamo, ansia educativa. Per Giuseppina Re dirigere una scuola, tra l'altro una scuola femminile come la Rita Garibaldi, che aveva lo scopo di formare quadri femminili per il partito, insomma era un incarico che in qualche modo, se da una parte le faceva piacere perché era chiaramente un attestato di stima, dall'altra, insomma, lei racconta delle notti passate a leggere, a studiare, a prepararsi. E la scuola si trovava a Fagetolario, che forse qualcuno di voi conosce, e io ho avuto la fortuna di incontrare un po' di persone che l'avevano anche frequentata, di cui mi hanno raccontato anche le difficoltà per le donne di accedere alla scuola di Fagetolario. Perché se per un uomo andare una settimana, erano corsi residenziali, andare una settimana o due settimane lontano dalla famiglia in una scuola di partito era una cosa che richiedeva una bassa organizzazione, per una donna che spesso aveva una famiglia a carico richiedeva invece un impegno maggiore, e soprattutto molte di loro giustamente mi dicevano: e poi sai, noi lavoravamo e quindi 15 giorni senza stipendio voleva dire togliere parte dello stipendio alla famiglia. E perché intitolare una scuola da Rita Garibaldi? Io un po' me lo sono chiesta, perché in fondo non era mica la comunista Rita Garibaldi, no? E, ma per fortuna, siccome Giuseppina Re aveva conservato anche alcune dispense che venivano utilizzate alla Anita Garibaldi, allora la spiegazione era perché in quel momento c'era una grande attenzione e una grande riscoperta delle eroine del Risorgimento, e Anita Garibaldi era una donna combattiva, tenace, ma era stata anche una madre e una sposa amorevole. Quindi in qualche modo teneva insieme le due componenti dell'essere femminile. L'essere una buona madre, una buona sposa, che se volete è una caratteristica più tradizionale, ma anche l'essere una buona compagna, no? Una donna combattiva, che aveva combattuto per la libertà, e poi era una martire, che voi sapete che Anita Garibaldi è morta incinta seguendo il marito. Per cui questo era il motivo per cui si era intitolata ad Anita Garibaldi una scuola, e oltretutto il Partito Comunista e il Partito Socialista avevano deciso proprio di rifarsi al nome di Garibaldi nel 48, quando si erano presentate le elezioni, e quindi in qualche modo, insomma, Anita Garibaldi era stata ricondotta tra le eroine risorgimentali vicine al Partito Comunista. Cosa si insegnava a Fagetolario? Io ho confrontato i programmi delle Frattocchie, che invece era la scuola del Partito Nazionale, con quelli di Fagetolario, e devo dirvi che i temi erano quasi sempre gli stessi: c'era l'educazione ideologica, la lettura del giornale, rudimenti di storia, si insegnava la grammatica italiana, perché poi una delle grandi conquiste dei militanti comunisti era quello che le scuole di partito non servivano soltanto per l'educazione ideologica, appunto, ma molti insegnavano anche a leggere e scrivere, insomma erano frequentati da una generazione che per problemi di miseria, di guerra, per mancanza anche di leggi statali, non aveva frequentato a lungo le scuole, Quindi si studiavano più o meno le stesse cose, con l'aggiunta però delle tematiche cosiddette femminili. Quindi si parlava di emancipazione della donna, si guardava all'Unione Sovietica come il modello principale di emancipazione della donna. Quello che un po' mi aveva stupito è che invece nulla veniva detto delle donne che nell'Ottocento e nel 1900 avevano rivendicato il diritto di voto. Nulla veniva detto di una donna che noi tutti adesso conosciamo come Anna Kuliscioff. E questo perché? Perché Anna Kuliscioff era una socialista riformista e quindi non si doveva prendere esempio da Anna Kuliscioff. E infatti il breve corso di studi era intitolato Clara Zetkin. Clara Zetkin, anche qui un personaggio emblematico, una scelta non a caso, era una donna che faceva parte della Terza Internazionale, che aveva combattuto contro il nazismo, ma anche contro il riformismo. E poi, soprattutto, era una donna che legava l'emancipazione femminile alla lotta di classe. Quindi non c'era una questione femminile slegata dall'emancipazione del proletariato. Le due cose andavano insieme. Quindi, di fatto, le dirigenti, le future dirigenti del Partito Comunista Fagettolario facevano lo stesso percorso, diciamo così, degli uomini. Certo, il fatto che queste tematiche femminili fossero richiamate soltanto in corsi presso le donne la diceva lunga dell'approccio, diciamo, separato e spesso ghettizzante che il Partito Comunista aveva nei confronti delle questioni femminili, per cui l'emancipazione era una questione di donne e non di rapporto tra i sessi. La maternità, per quanto l'UDI avesse fatto e continuasse a fare una propaganda per la maternità come funzione sociale. Teresa Noce in Assemblea Costituente ricordava che, insomma, i figli si fanno per l'avvenire della società, però di fatto queste tematiche dal partito stesso erano poi delegate quasi totalmente alle donne. Ma un'altra cosa volevo dirvi, perché insomma negli anni 40 e negli anni 50 il Partito Comunista investe così tanto sulle donne e perché crea delle scuole separate per uomini e donne, un po' per questioni culturali, un po' anche per questioni pratiche, no? Perché con l'allargamento del diritto di voto alle donne il Partito Comunista si rende conto che gli mancano quadri femminili e quindi gli mancano non soltanto potenziali elettori o elettrici, ma anche proprio donne da mandare nei comizi, da candidare, e quindi subito si adopera per creare questi quadri femminili e fin da subito si rende conto che nei contesti misti le donne non prendono la parola e quindi c'è tutta una relazione fatta alla commissione di partito per le scuole da Giuseppina Re e da altre compagne in cui si dice come effettivamente una separatezza iniziale può essere utile alle donne per prendere coscienza, che sono tutti temi che io, avendoli letti negli anni 2000, dopo il femminismo, mi sembravano cose ovvie, ma forse esserci arrivati negli anni 50, insomma, un merito bisognava riconoscerlo a queste militanti del Partito Comunista. Ed è lo stesso motivo per cui durante la campagna elettorale si organizzavano dei comizi e poi delle riunioni di condominio, perché questo permetteva alle donne di conciliare meglio famiglia e militanza politica e di scegliere gli orari indipendentemente dalle esigenze degli uomini. E questo degli orari, io credo che chiunque di voi faccia politica si rende conto che è ancora un problema abbastanza tipico della differenza tra uomini e donne, perché per quanto possiamo raccontarcela, la maggior parte del carico familiare è ancora addossato sulle donne e quindi le riunioni alle 9 di sera per una donna sono più difficili che non per un uomo. Quindi questo per dire quanto già negli anni 50, con tutte, diciamo, le critiche che si potevano fare al Partito Comunista, però un barlume di progressismo e di anticipazione rispetto ai temi che poi saranno propri delle donne dopo il femminismo già c'erano. Mentre Giuseppina Re è direttrice della scuola di Fagettolario, il Partito Comunista la ricandida alle elezioni ed è, non so se si vede bene, sarà l'unica volta che Giuseppina Re non verrà eletta. è quella una candidatura che io chiamo una candidatura di rispetto. La candidano per in qualche modo darle visibilità, ma in un momento in cui la sua vita era rinchiusa a Fagetolario, in cui aveva perso in qualche modo il contatto con l'elettorato. In questa tabella, che magari io mi guardo qua perché sennò io non ci vedo, ci sono le candidate del Partito Comunista nella circoscrizione Milano-Pavia dal 48 al 68, cioè gli anni in cui Giuseppina Pinare è candidata ed è parlamentare. E l'ho riportato perché si vede quante ne candida e quante ne riesce a fare leggere. Diciamo che Giuseppina Re è praticamente l'unica ad essere eletta sempre, e soltanto in un altro caso viene eletta insieme alla Rossana Rossanda, a parte le elezioni del 48, che sono quelle insomma, in cui vengono elette anche più donne. Quindi diciamo che la candida nel 53, ma candida sei donne, per la verità non riesce a fare le regioni anche una, comunque la candida ma non è eletta. Ma nel 58 Giuseppina Re viene candidata di nuovo e torna alla Camera e da lì inizia proprio la sua carriera da parlamentare, che dura per altre per tre legislature complessivamente, e in questo periodo affronta parte dei temi che Roberta ha anticipato prima. Qui la vediamo alla Camera con due colleghi e inizia ad occuparsi appunto dei temi che Roberta anticipava prima. Una delle prime, dei primi disegni di legge che presenta come prima firmataria è quello contro i licenziamenti per matrimonio. Siamo negli anni 60, era già stata approvata la legge sulla maternità, Noce di Vittorio. Che cosa succedeva? Siccome la legge sulla maternità introduceva un congedo obbligatorio, pagato, ma inizialmente a carico del datore di lavoro, i datori di lavoro avevano trovato la soluzione di licenziare le donne in caso di matrimonio. All'atto delle pubblicazioni, visto che si presumeva, insomma, all'epoca ci si sposava per fare dei figli, adesso si fanno i figli senza essere sposati, ci si sposa e non si fa figli. Prima, nella maggior parte dei casi, quantomeno, ci si sposava e dopo un anno e mezzo, insomma, si metteva in cantiere un figlio. E quindi i datori di lavoro licenziavano a monte. Prima di doversi far carico degli oneri della maternità, e addirittura, se vai avanti, si vede una lettera di una lavoratrice spedita a Giuseppina Re. In alcuni contratti di lavoro c'era la clausola del giubilato, c'era per le infermiere, ad esempio, e c'era per le commesse. Cioè, nel contratto si diceva che all'atto della pubblicazione, all'atto della pubblicazione di matrimonio, quel contratto si dichiarava nullo. E insomma, voi capite che era una discriminazione non da poco, e oltretutto andava contro a quella legge che era stata approvata pochi anni prima. E in questo caso l'attività di Giuseppina Re fu abbastanza tenace, perché aveva proprio questa idea: la crisi della famiglia può essere superata se la nostra donna sarà libera dai condizionamenti culturali, colta e impegnata nel mondo del lavoro. Cioè, per Giuseppina Re, ma io credo per tutto il Partito Comunista, la donna era soprattutto lavoratrice. E Giuseppina Re, ma anche per le sue compagne di partito, il lavoro aveva un ruolo di appunto emancipazione delle donne. Per cui soltanto quando la donna appunto sarebbe stata libera dai condizionamenti culturali e lavoratrice, allora anche all'interno della famiglia potevano cambiare i rapporti tra i sessi. Qui io vi ho riportato quello che scrive una lavoratrice che lavora alla Rinascente UPIM, e la Rinascente UPIM appunto avvertiva le lavoratrici che per le esigenze proprie del servizio vendita l'azienda risolveva il rapporto di lavoro del personale femminile in caso di nozze. Io mi sono spesso domandata quali potessero essere queste esigenze proprie del servizio vendita, per cui se uno si sposava doveva essere licenziata. E ancora, questa lavoratrice proprio scrive: il capo del personale ha giustificato il mio licenziamento dicendo che sposandomi avrei potuto avere figli. e quindi avrebbe sofferto delle mancate prestazioni per, non controbilanciate dai vari stipendi che avrei percepito. Insomma, tutte cose che adesso sono chiaramente illegittime. Questa legge contro i licenziamenti per matrimonio, che viene approvata nel 63, è importante per il diritto del lavoro perché è il primo caso di licenziamenti per giusta causa, cioè di contro licenziamenti ad mutuum. Cioè quelle norme che poi saranno contenute nello statuto dei lavoratori, che sono state abrogate qui in questi giorni, quindi non ci sarà nessuna articolo 18 contro i licenziamenti discriminatori, nel 63 ancora non c'erano, e questo è stato il primo caso di, appunto, come dire, divieto di licenziamento senza giusta causa, dove il licenziamento per matrimonio non era considerato chiaramente una giusta causa. Passa quella dopo. Qui in realtà è una foto molto, molto successiva, perché qui era con Pitteri, quindi siamo negli anni 90, fino agli anni 90. Prima. Sì, intanto. Perché le viene dato un riconoscimento dal comune di Milano, che non è l'Ambrogino d'Oro, è un altro riconoscimento. E poi riceverà anche il premio Isimbardi dalla provincia. Diciamo, parallelamente al suo impegno a favore delle donne lavoratrici, Giuseppina Re si occupa anche dei minori. Volete tematiche tutte femminili, tra virgolette, a favore dei minori, e in particolare si occupa della mancata riforma della giustizia minorile. Perché, insomma, negli anni 60, quando Giuseppina Re in Parlamento fa parte anche della commissione per l'indagine sulle carceri minorili, non c'era un diritto penale minorile. I minori venivano giudicati con le stesse regole degli adulti, e questo portava delle strutture, ovviamente, non soltanto perché non si riconosceva al minore una condizione differente, ma anche perché spesso, in mancanza di istituti dedicati ai minori, questi venivano rinchiusi, chiusi negli stessi carceri degli adulti, quindi entravano, che magari non erano neanche dei delinquenti, erano semplicemente dei ragazzini disadattati, e uscivano con un massimo di criminalità. E quindi non c'era nulla sul versante del recupero. Non solo, ma negli anni 60 in Italia si finiva in carcere per dei futili motivi. Non so se qualcuno di voi, non posso ricordarlo, ma ho letto tanti giornali dell'epoca, il caso di Franco Rinaldi, un bambino che in Sicilia era stato rinchiuso in un carcere perché aveva rubato una gomma, una mela, degli oggetti di pochissima importanza, oppure di bambini che finivano in manicomio perché avevano gettato degli oggetti, o ancora dei bambini che oggi noi consideriamo semplicemente iperattivi o con dei problemi di adattamento, che invece finivano nei cosiddetti riformatori, che poi altro non erano che istituti di pena. E in questi anni il Parlamento fa un'indagine molto interessante e approfondita sulle carceri minorili, trovando delle condizioni di degrado totale, non solo perché c'era una forte disparità tra nord e sud, proprio non solo nell'intendere il carcere, ma anche nelle tipologie di ragazzini che venivano mandati in carcere. Se al nord l'andare in carcere era una conseguenza di un atto giudiziario, quindi era punito anche con un'onta sociale per la famiglia, al sud spesso erano le famiglie a far entrare nei cosiddetti riformatori i bambini, perché non potevano occuparsene, per cui alcune famiglie particolarmente disagiate preferivano che il bambino entrasse nel riformatorio perché non riuscivano a stargli dietro, perché non andava a scuola, perché almeno lì aveva un pasto caldo e una formazione. C'erano nelle carceri del Meridione addirittura, questa commissione trova dei bambini di 5 anni, si fa a dire che un bambino di 5 anni è colpevole di un reato penale? Non c'era proprio un'attenzione nei confronti dell'infanzia. I bambini venivano appunto giudicati come degli adulti, quindi qualunque, diciamo, reato, tra virgolette, commesso da un bambino, che fosse minorenne o maggiorenne, l'iter giudiziario era lo stesso. C'erano poi delle differenze tra uomini e donne, ad esempio. Le carceri femminili erano tutte demandate a istituti di suore, non c'erano delle carceri femminili statali. E le donne che finivano in carcere, le ragazze, le ragazzine che finivano in carcere, ci finivano perché avevano consumato prima del matrimonio, perché avevano fatto quella che veniva chiamata la fuga d'amore, che spesso era uno stupro non riparato, e le famiglie allontanavano queste ragazze perché macchiavano l'onore della famiglia. E spesso dopo la reclusione per mesi o anni in questi istituti, il passo successivo era la prostituzione. C'era una connessione molto diretta tra appunto ragazzi che venivano reclusi in istituti e ragazze che poi, uscite dall'istituto, si prostituivano. Invece, insomma, i ragazzi finivano in istituto appunto perché erano avevano un comportamento non consono, perché non andavano a scuola, per motivi che a volte erano veramente molto, molto futili. Vi dicevo, riforma mancata perché la riforma del diritto minorile arrivò solo negli anni 80, quindi dopo parecchi anni, dopo 20 anni da questa indagine. Però è stato, insomma, il primo momento in cui il Parlamento italiano si è focalizzato sulla tragica situazione degli istituti minorili. Accanto a questa, appunto, riforma mancata, invece Giuseppe Re riesce a presentare una legge sull'adozione, legge che poi verrà effettivamente approvata dal Parlamento, perché fino agli anni 60 l'adozione veniva fatta soltanto tra maggiorenni. Infatti la legge che presentano si chiama legge sull'adozione speciale, cioè l'adozione era fatta per passare il patrimonio, quindi per questioni patrimoniali, tra una maggiorenne e un maggiorenne. Non c'era la possibilità di adottare minori, quindi quella che noi adesso comunemente chiamiamo adozione non esisteva. Questa legge sull'adozione speciale viene approvata, se non ricordo male, sempre nel 63, in contemporanea ai legge contro il licenziamento sul matrimonio, e questa è una conquista delle parlamentari comuniste che in accordo con le parlamentari cattoliche riescono a far approvare una legge, perché la Democrazia Cristiana inizialmente è contraria all'adozione, perché la famiglia era considerata un nucleo per discendenza di sangue, e invece le parlamentari cattoliche si alleano con le parlamentari comuniste, insomma una vera e propria alleanza tra donne, riescono a portare il partito su posizioni meno intransigenti e viene approvata questa legge sull'adozione. Poi avanti, più forse parliamo ancora dei minori, quindi Giuseppina Re, che giustamente, come vi dicevo prima, si domanda se sia normale il furtarello commesso da un minore o sia piuttosto normale il comportamento degli adulti che hanno negato al minore la disponibilità di qualche piccolo bene. E qui sta parlando proprio del caso di Franco Rinaldi, che era stato un caso di cui poi avevano parlato tutti i giornali, perché era un bambino delle elementari che era stato appunto incarcerato, e addirittura i genitori, era stato comunicato ore dopo tramite una lettera, proprio una non curanza totale. Avanti, lì vi ho messo l'attestato, il diploma che il Partito Comunista dà a Giuseppina Re nel 85 in occasione dei suoi 40 anni di militanza, e di cui andava molto fiera, tanto è vero che non voleva darlo insieme alle carte che ha donato all'archivio del lavoro. Due cose non voleva dare: una non l'ha data, che adesso vi racconto cos'è, e l'altra era questo, perché questo era incominciato e lei proprio quello era l'attestato più importante. E poi invece Maria Costa, la direttrice dell'archivio, è riuscita in qualche modo a convincerla che però il suo archivio senza questo attestato non era completo e via dicendo. L'altra cosa che non ha voluto dare erano le lettere d'amore che si scriveva con, diciamo, il suo fidanzato per tanti anni. E qui anticipo, insomma, intorno a un punto di cui parlava prima Roberta, la rimozione del privato. Io nel leggere le sue carte, nel vedere quello che aveva conservato, ma anche nel parlare con i nipoti, ho veramente notato questo totale scollamento tra quello che era la sua vita, cioè la politica, e quello che era il suo privato, che era una cosa talmente intima che non doveva essere divulgata. Tanto è vero che io nel libro non scrivo chi è questo compagno di una vita, che tutti sanno chi è, cioè non è un segreto, non è un segreto per nessuno. Tutti i suoi compagni di partito, compreso Armando Cossutta, appena mi incontravano mi diceva: ah, la Pinarè. La Pinarè è stata tanti anni con Vittorio Vidali. Ecco, lei talmente non ne voleva parlare che tutte le lettere non le ha mai consegnate. Non solo, negli ultimi anni, quando era molto malata, chiamava costantemente in archivio accusando Maria Costa di avergli sottratto queste lettere, che in realtà sono custodite dai nipoti. Lei non vuole che appunto che in nessun modo siano lette. Ed è il motivo per cui il libro è stato chiamato La politica come vita, perché leggendo le sue carte di questa donna tutto quello che si sa è la sua azione politica. Nulla si conosce della sua vita privata ed è, diciamo, una rimozione del privato che io ho voluto rispettare, non svelando nel libro, adesso ve l'ho detto, è una cosa veramente nota, non è una pettegolezza, però nel libro non ho voluto scriverlo proprio per rispetto a questa sua riservatezza sul privato. E tanto che i nipoti mi raccontavano che quando Vidali veniva a trovare, loro vivevano a Roma insieme, tutti lo sapevano, ma nessuno sapeva il perché, ma quando veniva a Milano a trovare Pinarè, la Rosetta, che era la sorella di Pinarè, stava in casa, perché Pinarè non voleva assolutamente che la gente pensasse che era in casa da sola con Vittorio Vidali. Non solo, ma una di queste nipoti, quella a cui lei era più affezionata, non si è mai sposata, ha avuto due figli ma ha sempre convissuto, e la Pinarè gli diceva: ma insomma, non è giunto l'ora di sposarti? Perché, insomma, era come se fosse in qualche modo, c'era una contraddizione in tutto questo, no? Nella vita che lei viveva con un uomo che era sposato, per cui non potevano sposarsi, e quello che avrebbe voluto invece per i nipoti. E per concludere, anche perché poi magari se avete voglia, io non so se c'è qualcuno qua che ha conosciuto la Pinarè o che in qualche modo uno a caso ne ha avuto, ha avuto dei sentori, insomma, dei racconti. Però per concludere volevo darvi appunto soltanto alcune indicazioni di quello che a me è parso di capire della sua vita. E innanzitutto non era una persona che si autocelebrava. In tutti i suoi interventi non c'era mai un io, c'era sempre un noi. Dove il noi era il partito, dove il noi era il sindacato, dove il noi erano le compagne dell'Udi. Aveva un legame con il territorio milanese, che sembra retorico dirlo, ma io l'ho provato sulla mia pelle, perché alle presentazioni che mi è capitato di fare c'era sempre qualcuno che si alzava e me la ricordo la Pinarè. Io per puro caso abito nella zona dove lei ha vissuto per tanti anni, dove c'era la drogheria Maiocchi e dove poi lei ha vissuto negli ultimi anni della sua vita, e dove ha contribuito a creare quello che è il Parco Nord, e quindi in zona, cosa dirvi, è conosciutissima. Quindi io credo che questo legame appunto col territorio non sia soltanto un fatto retorico, ma se lo sia conquistato negli anni. Per quanto riguarda il suo rapporto col partito, senz'altro si era guadagnata la fiducia dei dirigenti del partito con il suo modo di essere, di militare, e anche con in qualche modo l'obbedienza al partito in occasione delle dimissioni. Ma questa fiducia era anche frutto di sue competenze specifiche. Il suo percorso politico io mi sono chiesta se in qualche modo potesse essere stato influenzato dall'appartenenza di genere. Sì, probabilmente sì, perché aveva una buona diciamo rappresentanza, era sostenuta dal movimento femminile, dall'UDI, ma non solo dall'UDI, anche dalle associazioni femminili milanesi, e perché senz'altro è stata candidata dal Partito Comunista in quota donne. Io nel vedere appunto le candidature del Partito Comunista negli anni 40, 50 e 60, candidava per categorie, no? C'erano le donne, c'erano i lavoratori, quindi i rappresentanti del sindacato, a un certo punto i rappresentanti degli immigrati, perché c'erano i lavoratori che dal sud emigravano a Milano al nord, e quindi la comunità dei calabresi, la comunità dei siciliani, e questo anche semplicemente sfogliando le pagine dell'Unità prima delle elezioni, durante le campagne elettorali, si percepisce. E quindi senz'altro lei è stata candidata in quota donna, in quota UDI. Però, e qui arriviamo alla contraddizione, quando qualcuno dei testimoni che ho incontrato, gli altri dirigenti, voleva sottolineare l'importanza del ruolo di Pinarè, mi diceva: ah, però non era una rappresentanza del rappresentante delle donne, era un uomo di partito, cioè era un uomo in definitiva. E la qualcosa mi faceva un po' sorridere, perché andando indietro nel tempo, agli inizi del Novecento, lo stesso Filippo Turati, quando gli chiedevano ma bisogna darlo o no, concederlo o no il diritto di voto alle donne, lui rispondeva: certo, perché la donna è un uomo. E quindi in qualche modo mi rendevo conto che c'era della buona fede, no? A dire che era un uomo di partito voleva dire non era una che si occupava di cose frivole, ecco, era un vero dirigente di partito. E questo era dovuto senz'altro al maggior prestigio accordato alla figura femminile in politica. La stessa Pinarè aveva introiettato, e infatti si definiva deputato, o tutt'al più, come vi raccontavo, parlamentare. Insomma, per tagliare la testa al toro, fai parlamentare, che va bene per uomo o per donna. E quindi, cosa dire, la negazione della femminilità era probabilmente un prodotto di diversi fattori, cioè non me la sono mai presa con Giuseppina Re perché si definiva deputato, ovviamente, perché era dovuto, innanzitutto non c'era ancora stato tutto il dibattito sul femminismo, il suo definirsi deputato era un sottolineare che le donne e gli uomini sono uguali, dove l'uguaglianza era un valore, non un disvalore. E poi un ruolo rilevante era giocato dal linguaggio. Negli anni 50, 60, 70 non si diceva deputata. Adesso si dice, si diceva assessora, negli ultimi anni si dice, per cui anche il linguaggio sicuramente ha giocato la sua parte, e siccome appunto le parole riflettono poi il modo di pensare delle persone, diciamo che richiamano in qualche modo la tradizionale estraneità della donna alla politica, in questo il ruolo contraddittorio del rapporto donne politica, perché se voi pensate che la figura del rappresentante come neutro è stata dai giuristi, prima ancora che dagli storici, definita nell'Ottocento, quando a votare erano solo i cittadini maschi, è ovvio che a un certo punto doveva esserci una rottura per far entrare anche il femminile, e non erano chiaramente gli anni 50 e gli anni 60 gli anni giusti. E quindi io vi taccio e vi saluterei con una poesia scritta da Leto Morbidi, che era un deputato comunista che sui banchi del Parlamento, mentre Giuseppina Re era intenta appunto a difendere le sue battaglie, gli aveva scritto questa poesia che secondo me è molto carina, perché insomma, in qualche modo io l'ho trovata alla fine, per cui non mi sono fatta influenzare dalla poesia, però avendola letta, questa era qualcosa di giovane, schietta, giovane ovviamente era giovane, in Parlamento è schietta, parlare posato e chiaro, un'attenzione acuta suscita e sottrae e non distrae più dal suo dire, perché quando parlava, e questo me lo dicono anche la generazione successiva, no? Giuseppina Re era uno che quando parlava doveva ascoltarla, e quando parlavano gli altri prendeva appunti, arrivava col suo quadernino e prendeva appunti, preziosa di saggezza, i colleghi diversi nell'aula sovente, adusi a non pensare a niente, questa è una frecciatina ai colleghi di partito rimane così ben chiaro che ognuno usa la sua persona cara. Questo mi sembrava un modo carino per concludere. L'altra slide invece è la pubblicità all'Enciclopedia delle Donne, non so se qualcuno di voi la conosce, è un progetto editoriale che è partito da un paio d'anni e che ha l'intento di non di fare un'enciclopedia delle donne separata dagli uomini, però le promotrici dicono, visto che nelle enciclopedie spesso si trovano soltanto gli uomini, tanto vale dare un po' di visibilità alle donne. Quindi chiunque di voi abbia studiato o incontrato una donna che ritiene di dover segnalare può mettere la biografia sull'enciclopedia delle donne, una specie di Wikipedia enciclopedica delle donne. Mi taccio, vi ringrazio. E se invece qualcuno di voi ha qualcosa da dire, da chiedere, da raccontare, andiamo. Visto che abbiamo il piacere di avere la vice sindaco. Sindaco. C'è sindaco. Sindaco, bellissimo. Silvia Magni e poi anche André, del responsabile delle donne del PD, e anche l'onorevole Rosalba Bendone, insomma, voglio dire. La pena, eh? Io comincio io? O vuole... No. Vabbè, intanto mi attengo così. Volevo ringraziarvi per l'invito e fare i complimenti perché è stato molto, molto interessante e molto bello. Tra l'altro accenno ai tempi e alle difficoltà, devo dire che ci ritrovo perfettamente, infatti tra poco me ne devo andare perché mi aspettano da un'altra parte, vorrei cenare prima se possibile. E niente, insomma, sono appunto neo vice sindaco, effettivamente le cose da fare già anche questi primi giorni sono molte, ritengo però che l'insegnamento che ricavo da questa storia molto, molto bella è proprio l'attaccamento al territorio, la capacità di anche quest'ultimo dettaglio, quindi di stare attenti quando le persone parlavano, Giuseppina, e quindi questa capacità di ascoltare sempre anche quando magari la posizione poteva, come dire, farle prendere una posizione di distacco. Questa capacità credo che vada preservata sempre. È faticoso, devo dire, perché quando il tempo manca le cose, gli impegni si accavallano, però si può dire che è un bel insegnamento. Io vi ringrazio davvero perché sono stata molto contenta e congratulazioni perché è un'altra donna di qualità. Grazie. Assolutamente i suoi ringraziamenti per l'invito e a Deborah per quanto riguarda il racconto che ci ha fatto, perché è stato bello, mi ha tirato sinceramente dentro. E quello che mi ha colpito di più, a parte la questione dell'attaccamento al territorio, come diceva adesso Silvia, è stata la questione del fatto dell'insegnamento, quindi il fatto di essere direttrice della scuola di formazione, quanto invece adesso all'interno di un partito comunque la formazione ci sia, ma sia non costante, non è così capillare. È a volte anche costosa perché comunque devi partire dall'altra parte d'Italia per riuscire a farla, e quindi da questo punto di vista trago io un insegnamento, volendo magari anche rimarcare questa mancanza ai livelli nazionali più alti del partito. Poi dopo vorrei farti un battuto più alto per poter magari ritornare qualcuno in altra sede per presentare il libro. Grazie. No, ma io credo che ci siamo incrociate con lei in passato, perché chiedevo prima a Calzati se una volta avevo ricevuto una mail da una ricercatrice che stava facendo una ricerca sulla scuola di Faggeto. Allora forse era lei. Ho andato e avevo indirizzata appunto a Calzati. Mi è rimasta la curiosità di sapere i documenti che riguardano la scuola di Faggeto. Io poi avevo fatto un po' di ricerche su questa cosa quando c'è stata la mostra del PC l'anno scorso, l'Antiopopolo, no? E per quanto riguardava Como avrei voluto mandare un po' di materiale su questa, però non credo, cioè, che non ci sia in giro niente. Io ho ricostruito le cose grazie alla rete capillare di donne che mi hanno accolto e mi hanno raccontato. capitanata da Franchina Cervetti, non so se qualcuno di voi la conosce, che si è messa lì un pomeriggio e le ha chiamate tutte. Perché attraverso contatti. Poi un po' perché la Pinarei aveva conservato materiale e poi a Gramsci, a Roma, dove c'è del materiale però di risulta, perché diciamo il fondo di Faggeto Lario è andato perso. Qualcuno, i maligni dicono che qualche dirigente se l'è portato a casa. Mi hanno detto anche chi, l'ho chiesto a questo dirigente, ma cadeva dalle mani. Chiaramente mi ha risposto di no. E poi mi ha anche detto perché mai, effettivamente non era. Il timore è che siccome quella sede ha cambiato diverse volte destinazione, a un certo punto era diventata anche una scuola sindacale, probabilmente in vari traslochi la carta è stata piantata semplicemente. Quindi se esiste un fondo delle Fortocchie, che adesso penso che per gli anni sarà messa a disposizione perché il Gramsci ci sta lavorando, ci sta variando su Faggeto Lario, io non, ad oggi non ho mai trovato niente. Su Faggeto Lario c'è un po' di materiale proprio sulla scuola femminile, la situazione che abbiamo traslocato. Io avevo un coraggio. Sì, ma ci sono le dispense. Dispense, sì, anch'io le ho messe quelle, documenti interni no. No, tanto sono le stesse cose, c'erano anche a Gramsci, le dispense, qualche circolare. Per esempio non c'è. L'elenchi del. Perché quando poi venne chiusa la scuola femminile diventò albergo, esatto, io ho provato a vedere anche nell'archivio della Federazione Milanese del PC, che era ISEC, a San Giovanni, anche lì non c'è niente. E poi una parte del materiale di Faggeto, quando Faggeto venne chiuso definitivamente, io ero allora il direttore della scuola, fu portato via. Non sono io, io non l'ho portato via. Però quando è diventata scuola bolognese, non quando... Scuola bolognese non l'hai mai stata. No, quando dipendeva dalla Federazione di Bologna. No. Allora, venne riaperta, io feci il primo corso quando riaprimo la scuola di Faggeto dopo che per alcuni anni era stata abbandonata. Perché è stata chiusa con lei, credo. Allora, è stata chiusa con lei quando ci fu la riforma generale di tutte delle le scuole di partito, si concentrò tutto fra tutti. Esatto. Tutte le scuole che erano in giro per l'Italia vennero chiuse. E venne chiusa. La Federazione di Bologna, che era, divenne proprietaria dell'immobile, sì, lo trasformò in albergo, difatti c'erano ancora, almeno mi ricordo, l'insegna delle due torri e le bolognine, l'albergo due torri, l'albergo ristorante facevano le lasagne, il lago faceva le lasagne. Poi venne chiuso quando la Federazione di Bologna non era più in grado di gestirla e rimase chiusa per diverso tempo. Venne riaperta quando Cervetti era segretario regionale del partito e decise di avviare una formazione regionale del partito. E mi hanno mandato io per un paio di mesi a fare i primi corsi. Non era più femminile? Era diventata, per allora era scuola regionale, arrivavano i quadri dell'inciso, uno dei partecipanti... Uriel? Dopo divenne più. In quel momento lì venne riaperta come scuola regionale, uno dei primi frequentatori di uno dei primi corsi era Chico Testa, che era allora segretario della sezione Max di Milano. Poi, fatta questa prima esperienza come regionale, a livello nazionale si decise di riavviare le informazioni sulle basi.